Dal 1° giugno partirà senza fretta una rassegna estiva della Scuola di Pace di Montesole. Siamo al telefono con Elena Monicelli per parlarne. Buongiorno Elena. Buongiorno a tutti. Che cos'è senza fretta? È la prima rassegna estiva che la Scuola di Pace riesce a proporre. Siamo molto contenti di questo e chiaramente dobbiamo ringraziare Bologna Estate, quindi il Comune di Bologna e la città metropolitana che ci hanno permesso di fare questo programma diffuso e ad accesso libero per la prima volta. Era una cosa che volevamo fare da tempo, a cui teniamo tanto, perché Montesole è frequentatissimo, ma ci capita spesso di vedere persone che si aggirano un po' spaesate e quindi volevamo dare loro l'opportunità di fare esperienza proprio di Montesole e del suo respiro lento in qualche modo. Ho visto che avete scelto 5 parole chiave. Sì, abbiamo scelto le parole che caratterizzano il nostro lavoro di tutto l'anno, la nostra metodologia, il nostro approccio e quindi proveremo a vivere insieme con un significato magari un po' più profondo, magari andando oltre la superficie, i concetti di memoria, di emozione, di responsabilità, di identità e di conflitti. Il tutto ovviamente nella cornice di Montesole. Il calendario è molto ricco, ci vuoi suggerire qualche appuntamento? Io parto sicuramente da quello del 1° e 2 giugno. Perché abbiamo deciso di fare partire la nostra rassegna lì, la parola chiave in quel caso è memoria e abbiamo deciso di partire proprio in quel fine settimana perché c'è questa data fatidica del 2 giugno che come i più sapranno è spesso caratterizzata da o parate militari o grandi retoriche sulla nostra identità nazionale. Il rischio è quello di incastrarsi in questa forma di ricordo, ma secondo noi Montesole ha molto da dire a un 2 giugno e a una Repubblica italiana che ripudia la guerra, che è democratica, che è fondata sul lavoro e quindi l'invito è quello di venirci a trovare proprio in questo fine settimana per dare un segnale forte rispetto diciamo al sentire più comune di questi tempi, ecco. Un altro tema chiave è quello di identità che oggi, come dire, è molto discusso, ecco, diciamo così, no? Anche negli slogan che riguardano una primazia dei nostri connazionali. Sì, ci siamo resi conto nel nostro lavoro che forse più di prima si sente la classica frase non sono razzista ma, e quindi abbiamo capito che probabilmente bisogna andare oltre quello che era una sorta di autocensura nel dire certe cose, nel pensare certe cose. La questione della razza, la chiamiamo proprio così, ha cominciato ad esercitare nuovamente un fascino lontano dai tabù che la Seconda Guerra Mondiale aveva creato e quindi ne vogliamo discutere perché non ci accontentiamo più di dichiarazioni vaghe di non razzismo, ma vogliamo capire il razzismo, la discriminazione che si annida comunque dentro ciascuno di noi. E ovviamente l'invito sarebbe anche molto aperto e molto rivolto a chi invece comincia la frase con sono razzista perché e quindi vorremmo capire e dibatterne, non so se questo invito verrà accolto. Beh sì, vedremo. Poi ci sono tanti altri appuntamenti e magari ci risentiremo ovviamente anche in prossimità, perché appunto magari vale la pena anche di fare un reminder quando stanno per arrivare questi appuntamenti. Vedo che comunque molto volentieri, sì. Anche perché in realtà è un calendario in aggiornamento, abbiamo contattato diversi amici e diversi ospiti, stiamo vedendo se i nostri fine settimana possono essere ancora più ricchi di così e quindi volentieri ci possiamo risentire. Vedo che le attività comunque sono libere e gratuite. sì, sempre, sono rivolte oltretutto a adulti o bambini, quindi le famiglie si possono muovere in tutta tranquillità e avremo momenti dedicati a tutti quanti, e siamo anche pronti alla stagione avversa, visto che anche qua il meteo finora non ci ha molto assistito, saranno possibili le attività anche in caso di maltempo, quindi se alzandovi la mattina vedete un po' di nuvolaglia, non vi preoccupate, raggiungeteci comunque e magari il sole lo faremo spuntare noi. La prenotazione è gradita, vedo. La prenotazione è gradita soprattutto per le attività rivolte ai più piccoli, perché quelle richiedono materiali e magari un po' di preparazione, ma se non avete voglia di impegnarvi e vincolarvi, davvero veniteci a trovare, vi aspettiamo qua. Io Elena ti ringrazio e poi ci sentiamo più avanti appunto per i prossimi appuntamenti. Grazie a voi e buona giornata a tutte e a tutti.